Hashtag Autotrasporti. Hashtag Autotrasporti, buon pomeriggio. Nuovo appuntamento con la trasmissione di Radio 24 dedicata al mondo dell'autotrasporto e della logistica a cura di Andrea Ferro. In apertura l'emergenza che sta investendo la logistica europea con riflessi diretti anche sul nostro sistema produttivo. L'emergenza è scattata in seguito all'interruzione del corridoio ferroviario Reno-Alpi dopo il cedimento della sede ferroviaria avvenuto in territorio tedesco all'altezza di Rastatt. La linea è bloccata dal 12 agosto e la riapertura è prevista non prima del 7 ottobre. E da settimane ormai vi aggiorniamo su quello che sta accadendo e con il passare del tempo la situazione si fa sempre più critica. I servizi intermodali sono nel caos, c'è il timore che lo stop lungo il corridoio possa lasciare strascichi strutturali sul sistema dei trasporti combinati, vanificando così gli sforzi degli ultimi anni a favore della sostenibilità. Dicevamo, in Italia soffre non solo la logistica ma anche il sistema produttivo, visto che su questo corridoio transita una fetta significativa del nostro export. Ci sono aziende che sono già state costrette a limitare l'attività. E nei giorni scorsi al Ministero dei Trasporti si è riunito un tavolo tecnico. Inoltre 24 associazioni europee del trasporto e della logistica hanno scritto al Ministro dei Trasporti tedesco e alla Commissaria europea per denunciare la crisi del settore provocata dall'interruzione di Rastatt. Ma per fare il punto sulla situazione abbiamo intervistato Angelo Di Martino, presidente della sezione trasporto intermodale di Anita. Di Martino. Lei sa benissimo che specialmente per noi italiani il traffico intermodale verso il nord Europa è parecchio, perché la maggior parte lo facciamo noi. Quindi le nostre imprese italiane sono quelle che ne soffrono di più e anche gli operatori intermodali ovviamente ne soffrono, perché è un calo non indifferente. Partivano in tempo normale oltre 200 treni al giorno, oggi ne partono sì e no un 20%, non di più. Le aziende stanno incominciando a chiudere qualche reparto, ovviamente, perché si danno da fare, però non ci sono i presupposti per fare il 100% di quello che facevamo in tempo normale. Nell'incontro al Ministero le associazioni hanno sollecitato il governo a chiedere alle autorità tedesche un impegno sui tempi della riapertura della linea. Per il momento c'è una data prevista, come si diceva prima, è il 7 ottobre. Loro a voce dicono che praticamente la rispetteranno, però questo, se non la rispetteranno ovviamente ci potrebbero essere veramente disastri, insomma, perché andare ancora avanti diventa problematico. Nel frattempo i convogli che riescono a partire vengono dirottati su altre linee. In parte sulla linea del Brennero, però ovviamente non basta, perché ci sono, a parte i ritardi, ma non copriamo tutto con quelle linee. Linee del Brennero, un po' dal discorso Svizzera, e poi lì insomma si collegano un po'. Si pensava di fare, lei pensa che se questo discorso fosse successo in Italia, ovviamente, lei pensa insomma, che cosa succedeva con l'Europa, può capirlo questo, no? Gli italiani qua e là, eccetera. Siccome è successo in Germania, ovviamente noi dobbiamo stare zitti. E poi abbiamo detto lì nella riunione di spingere attraverso sempre il ministro Del Rio col ministero tedesco, a parte in Europa, di spingere per vedere questi danni che sono ingenti, chi è che deve pagarli, perché qualcuno li dovrà pagare, no? Certamente non possiamo pagarli noi italiani, perché colpa non ce l'abbiamo. E da un'emergenza sui binari ad un'altra emergenza, potremmo dire ordinaria, che da anni inquina il mercato dell'autotrasporto con aziende che chiudono e posti di lavoro che vengono meno. Ci riferiamo al cabotaggio abusivo e al dumping sociale, fenomeni che penalizzano le nostre aziende a favore dei vettori dell'Est Europa. A Bruxelles si lavora al pacchetto mobilità, che contiene una serie di misure destinate a normare una situazione ora di fatto senza regole. E non tutte le proposte presentate dalla Commissione nel pacchetto mobilità andrebbero però in quella direzione, come sostengono le associazioni dell'autotrasporto. Una questione su tutte: le nuove regole sul cabotaggio di fatto porterebbero ad una liberalizzazione dei servizi. E proprio su questo punto e in generale sulle profonde divisioni tra i due blocchi abbiamo sentito Massimiliano Salini, europarlamentare e membro della Commissione Trasporti. Rimane certamente il capitolo sul quale io per primo sarò più deciso nell'oppormi, diciamo, alla maggiore liberalizzazione che è stata promossa con la prima proposta arrivata dalla Commissione europea. La strategia che noi abbiamo, una strategia che fino ad ora, ahimè, non ha prodotto buoni risultati, il blocco dei paesi cosiddetti di Visegrad rimane contrapposto, diciamo, a paesi più strutturati dal punto di vista economico e più tradizionalmente orientati a garantire condizioni di lavoro di alto profilo, a differenza di quanto accade all'est. I due blocchi rimangono contrapposti, si profila una discussione molto forte. L'unico modo per affrontare con efficacia questo problema della concorrenza sleale da parte di paesi che distribuiscono sul territorio europeo lavoratori, operatori, diciamo, che lavorano a condizioni totalmente fuori dal mercato, l'unico modo è negoziare su altri tavoli. Paesi dell'est che su tutti gli ambiti che riguardano la partecipazione alla vita economica dell'Unione Europea sono incassatori netti dall'Unione in termini economici, a differenza di paesi come l'Italia che invece sono pagatori netti, nel senso che hanno un saldo, noi abbiamo un saldo negativo tra quanto diamo e quanto riceviamo dall'Unione Europea. Ecco, l'unico modo per affrontare la partita del cabotaggio illegale, del dumping su una partita centrale per l'economia europea come quella dell'autotrasporto, è incominciare a minacciare concretamente la possibilità di ridimensionamento di finanziamenti su altre partite. Non vi è altro modo. Dopo un 2016 con il botto e un buon avvio del 2017, il mercato dei veicoli industriali accusa una battuta d'arresto. Secondo i dati diffusi da UNRAE, a luglio le immatricolazioni dei veicoli con massa superiore alle 3,5 tonnellate hanno fatto registrare un calo del 7,6% rispetto allo stesso mese del 2016, mentre ad agosto la contrazione è stata del 2,2%. Un'estate altalenante per i veicoli pesanti con massa superiore alle 16 tonnellate. A luglio si è registrata una flessione del 2,4%, ad agosto invece è tornato il segno più 3,1%. Altri numeri, altre percentuali, questa volta si riferiscono al traffico di mezzi pesanti. Secondo i risultati del Centro Ricerche Continental su dati di AISCAT, nei primi 5 mesi del 2017 sulle autostrade la circolazione dei TIR è aumentata del 3,1% rispetto allo stesso periodo del 2016. Un altro dato arriva dalla rete ANAS. Ad agosto, seppur di poco, parliamo dell'1%, sono aumentati i transiti di mezzi pesanti rispetto a 12 mesi prima. E a proposito di traffico, ANAS ha tirato un po' le somme dell'estate 2017. In generale si sono registrati più veicoli in movimento, più 1,5%, e si è avuta la conferma che le abitudini degli italiani stanno cambiando. Le partenze sono state scaglionate nell'arco dell'intera stagione eppure durante la settimana. Al di là dei volumi di traffico, ci sono due elementi che hanno caratterizzato l'estate 2017 vista e vissuta sulle strade. Da una parte gli incendi e dall'altra gli incidenti. Ne abbiamo parlato con Roberto Mastrangelo, responsabile della gestione della rete di ANAS. Partiamo dagli incendi. Non hanno ovviamente interessato le strutture stradali, però hanno avuto un impatto notevole sulla circolazione. Questo è legato sia al fenomeno del fumo che invase la carreggiata e carreggiate stradali, sia in alcuni casi alla necessità di consentire l'utilizzo in sicurezza dei mezzi aerei che hanno sganciato quindi acqua sugli incendi, e quindi i tratti stradali sono stati ovviamente chiusi al traffico. Noi abbiamo registrato complessivamente oltre 470 eventi, quindi incendi, che hanno comportato per noi la chiusura di 64 tratti stradali, per periodi fortunatamente non sempre elevati, ma ovviamente anche questi hanno determinato dei disagi alla circolazione. Dicevamo degli incidenti, al di là dei numeri, tra le cause ricorre sempre più la distrazione. Noi abbiamo ancora registrato nell'ambito dell'incidentalità circa un 35% di incidenti autonomi, quindi sono incidenti che pur non riuscendo ad individuare la causa precisa, ma oggettivamente possono essere riconducibili a distrazione, quindi a utilizzo di cellulare, colpo di sonno o stato psicofisico alterato, e quindi questo è un segnale sul quale dobbiamo comunque lavorare molto, perché al di là della riduzione, voglio dire, questo fenomeno è comunque allarmante. La disattenzione alla guida è un dato costante in questi ultimi tempi e dobbiamo assolutamente impegnarci tutti per cercare di rendere consapevoli chi sta alla guida che la disattenzione, appunto, come vediamo dai dati, è la causa fondamentale degli incidenti stradali. E a proposito di sicurezza, sulle strade europee parte oggi la campagna delle polizie a favore delle cinture di sicurezza. In programma una serie di controlli mirati che dureranno tutta la settimana. Hashtag Autotrasporti termina qui. Grazie per l'attenzione e buon pomeriggio. Hashtag Autotrasporti.